Gli speciali di Radio 24. Scuola, quale scelta per i nostri figli? Tutti riperfetti, bella classe terza D, sta sfogliando il sillabario, ripassando la BC. E magari ci sarà anche qualche asino, qualche genitore di asino all'ascolto in questi minuti. Ebbene, non è solo per loro questo speciale, naturalmente l'abbiamo pensato per gli asini, i bravi, gli indecisi, ma soprattutto per gli ansiosi, perché la scelta delle superiori davvero agita moltissimo le famiglie in questo periodo, soprattutto le mamme, c'è da dire. E allora, primo messaggio che vogliamo dare proprio questa sera: state tranquilli, è vero che è una scelta importante, è vero che forse è la prima scelta importante che i ragazzi sono chiamati a fare, perché insomma stare poi in una scuola che non piace diventa davvero molto faticoso per i ragazzi e per le famiglie, e poi insomma è il primo passo che questi ragazzi sono tenuti a fare anche un po' da soli. Scelta importante dunque, ma non è di certo la scelta definitiva, non dipenderà da questa scelta tutta la nostra vita futura, ci sarà poi l'università, ci saranno molte altre scelte da fare nel corso della propria carriera lavorativa. Allora noi cercheremo di darvi una mano questa sera, cercando di capire se finora avete fatto i passi giusti per arrivare ad una decisione consapevole e quali passi ancora potete fare e vi consigliamo di fare. Sì, perché c'è ancora un mese di tempo, poi ve lo spiegheremo bene. Qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda vogliate fare, vi ricordo i nostri numeri 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Gli sms al 349 238 6666, stasera potete davvero approfittarne perché sono circondata da esperti che potranno darvi tutte le informazioni possibili, togliervi qualche dubbio. Ve li presento subito: Eugenio Bruno, collega di Scuola 24, il quotidiano digitale del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Daniele Grassucci di Scuola.net, buonasera Daniele. Buonasera. Lo conosciamo, è intervenuto ad un sacco di nostre trasmissioni. Mario Rusconi dell'Associazione Nazionale Presidi, un altro amico di Radio 24, buonasera. Buonasera. Al telefono Maria Rosaria Mancinelli, psicologa, psicoterapeuta, insegna psicologia dell'orientamento all'Università Cattolica di Milano, ha scritto questo libro importante, utile, Quale scuola superiore? Guida completa alla scelta per studenti e genitori. Buonasera Maria Rosaria. Buonasera. Buonasera. Allora, cominciamo dall'ABC. Bruno, come oggi c'è stato il primo giorno, è andato bene, il server ha retto perché in passato c'è stato anche qualche problemino. Questa moltissimi. È già una notizia. No, in realtà è andata bene anche l'anno scorso, dai, non buttiamoci giù. Allora, com'è andata oggi? Allora, è andata bene, direi. In 67.000 famiglie la decisione è già stata presa, quindi non solo hanno presentato la domanda, l'hanno anche inoltrata direttamente alle scuole. C'è da dire che non è un click day, eh? Il fatto di iscriversi oggi, domani è uguale. Assolutamente no, c'è tempo fino al 15 febbraio, la procedura è iniziata lunedì per chi voleva cominciare a registrarsi e quindi avvantaggiarsi da questo punto di vista, ma per la scelta vera e propria della scuola si è partiti da oggi e ci sarà tempo fino al 15 febbraio. Ogni famiglia ne potrà indicare tre, quindi potrà individuare una prima scelta e poi anche due alternative. I criteri per l'assegnazione dello studente a questa o a quella scuola non sono di tipo temporale, quindi non serve a nulla arrivare correre. per primi. Forse meglio pensarci bene. Assolutamente, magari utilizzando quegli strumenti informativi che comunque ci sono, al di là dell'orientamento che andrebbe fatto e che non sempre viene fatto, magari certo. Ne parleremo più avanti. E infatti Daniele, sono ancora molti gli indecisi nonostante già ci siano state molte iscrizioni. Esatto, il tasso di indecisi si aggira intorno al 30% e la cosa sconcertante è che noi ormai sono anni che facciamo questa trasmissione insieme, che quindi poniamo ai ragazzi in questo periodo la stessa domanda. Ebbene, nonostante questo, la percentuale di indecisi continua a rimanere costante, quindi vuol dire che questo orientamento effettivamente ha delle problematiche e quindi si continua ad avere una percentuale di ragazzi non trascurabili che in un mese deve scegliere. Che non ha frequentato neanche, non ha assistito neanche a un open day, non ha partecipato, non è stato sottoposto a test, quindi insomma ancora le scuole si devono dare da fare da questo punto di vista. Rusconi, quanti ragazzi arrivano poi nelle scuole superiori dalla sua esperienza di preside, che in realtà poi forse se ci pensavano un po' meglio sarebbe stato meglio? Beh sì, la percentuale è piuttosto alta, anche perché, dicendo una battuta, abbiamo molti indecisi, come diceva adesso Daniele, non abbiamo purtroppo gli astenuti, come avviene per esempio nella politica e nelle elezioni. Quindi bisogna assolutamente decidere entro il 15. Vorrei fare però appunto dare un'indicazione anche ai genitori. Attenzione nella scelta della prima scuola, cioè dovete fare in modo che sia una scelta che nell'ambito, diciamo così, del quartiere, della zona in cui voi vi trovate. Perché se per caso c'è un sovrannumero, un overbooking di studenti, la scuola naturalmente deve respingere, perché i locali sono quelli che sono, non c'è un obbligo di prendere tutti, non c'è la dilatazione degli spazi, e naturalmente ogni consiglio d'istituto stabilisce un proprio criterio. I criteri per l'esclusione e per l'inclusione non sono nazionali, ma dipendono dal consiglio d'istituto in cui ci sono i genitori, gli studenti, nelle scuole superiori, i professori ed il preside. E in genere il criterio più affermato, Daniele potrà pure appunto asseverare quello che dico, è il criterio territoriale, cioè quelli che abitano più vicino vengono presi, quelli che abitano lontano non vengono presi. Perché lo dico? Perché moltissimi genitori, per la mia esperienza, scelgono la scuola cosiddetta prestigiosa, magari è prestigiosa per sentito dire o perché è stata frequentata da Alessandro Magno, Giulio Cesare e così via. Allora, il prestigio, diciamo così, sociale, la fama. Poi questa scuola ha troppi studenti, non si è nella zona scelta naturalmente dal criterio del consiglio d'istituto, si viene quindi respinti e si ha poi difficoltà persino a iscriversi nella scuola sotto casa, perché nel frattempo pure quella scuola sono è stata arrivate. Completata. Quindi molta attenzione nello scegliere la scuola anche dal punto di vista topografico, direi. Assolutamente. Maria Rosaria Mancinelli, se dovessimo, poi ci torneremo su tutti gli aspetti che sono ben descritti nel suo libro, ma se dovessimo dire in 2 minuti quali sono le regole fondamentali, le prime regole da seguire per scegliere la scuola superiore, cosa potremmo dire? Vorrei allacciarmi un attimo fino a comporre il numero del... Ecco, magari poi ci torniamo fra un istante alla Mancinelli. E allora facciamo che adesso ci colleghiamo subito, salutiamo il ministro Stefania Giannini, che anche quest'anno ha voluto partecipare alla nostra diretta, e per questo naturalmente la ringraziamo. Buonasera ministro, tutto sembra filato liscio oggi nel primo giorno di iscrizioni. No, la macchina è rodata e comunque sta funzionando molto bene, siamo anche molto orgogliosi di un'amministrazione che è vicina alle famiglie, che fa risparmiare tempo e che dà anche una possibilità all'interno di un mese di ponderare le scelte, no? Perché quando i ragazzi si iscrivono a scuola, insomma, tranne le scuole di primo livello, fanno anche una scelta importante per il resto della vita. Fanno una scelta importante ed è proprio di questo che stiamo parlando questa sera nello speciale di Radio 24. Allora, ministro, che consiglio possiamo dare alle famiglie, soprattutto, come dicevamo, quelle che devono affrontare la scelta forse più importante, no? Per i ragazzi, quella delle superiori? Ma il consiglio tecnico, si tratta di 1,5 milioni, voglio ricordarlo, di ragazzi e quindi di famiglie coinvolte, è di cominciare subito, si parte appunto oggi e si va avanti fino al 15 di febbraio, quindi c'è un mese, ma meglio avere sul sito del MIUR tutti gli elementi per preiscriversi e poi perfezionare l'iscrizione quando la scelta è definitiva. Invece una scelta più di carattere culturale, diciamo, o se vogliamo di carattere generale, è quella di lasciare che i ragazzi stessi, no, soprattutto quando si parla della scuola superiore, possano capire, seguire il loro talento, le loro attitudini, le loro aspirazioni. Io credo che la famiglia sia un punto di riferimento fondamentale, ma che la scelta sia bene che la faccia lo studente con gli strumenti giusti per la bussola, insomma, quella che noi chiamiamo l'attività di orientamento, in fondo è una bussola che la scuola deve sempre più e sempre meglio in una società complessa fornire, ed è quello che stiamo cercando di fare. Ed è giusto, no, che insomma questi ragazzi, è vero che hanno 13 anni, ma è forse la prima scelta che sono chiamati a fare un po' da soli, col sostegno della famiglia, col sostegno delle scuole, dei propri insegnanti che danno il consiglio orientativo, però è la prima volta che insomma se la devono un po' assumere questa responsabilità. Sì, assumersi questa responsabilità secondo me vuol dire prima di tutto capire quali sono gli interessi fondamentali, qual è l'ambito di studi quando si arriva dalla scuola primaria e dalla secondaria di primo livello, si ha già un'idea, no, dei grandi blocchi, diciamo, di discipline, di materie e quali sono i contenuti, gli strumenti e quali sono anche diciamo le inclinazioni che ciascuno studente e i risultati che può ottenere. Quindi il primo punto è capire dove si vuole approfondire la propria competenza. E il secondo elemento è cercare anche di capire qual è la scuola alla fine, no? Sempre in una dimensione anche di territorio che mette al primo posto, come è logico per un bambino di 14 anni e per la sua famiglia, la vicinanza, la logistica, eccetera, eccetera. Però alla fine le scuole anche in Italia cominciano a fare dei lavori veramente autonomi, no? Che possono differenziarle l'una dall'altra. E quindi credo che. Quindi studiare bene le proposte delle varie scuole, magari sì. Non accontentarsi di quella che è di fronte a casa. Proprio dietro l'angolo, che magari è eccellente, ma magari non risponde, diciamo, a un progetto educativo. O quella magari dove vanno gli amici, insomma, quella non è una buona scelta. Diciamo che l'attrazione del gruppo è un elemento tradizionale, secondo me, da non condannare affatto, però non deve essere quello determinante, se no a volte succede che si fanno cose che non ci piacciono. E poi stare 5 anni in una scuola che non piace è dura, diventa dura. Ecco, ma si può migliorare qualcosa nell'orientamento? Perché insomma non tutte le ci sono davvero, sono stati fatti dei passi avanti notevoli, le sono scuole. Sono stati fatti in Italia, va reso merito anche ai governi precedenti, soprattutto nell'ultimo anno, è stato fatto un piano delle linee guida sull'orientamento che noi cerchiamo oggi di sviluppare con un principio però innovativo, che è quello di mettere a sistema, no, l'attività di orientamento. Un atto concreto l'abbiamo fatto qualche settimana fa, e cioè la identificazione degli standard minimi perché l'orientamento sia efficace in tutto il paese attraverso un accordo anche con le regioni. Questo cosa significa? Che ciascuna scuola non deve suonare la sua banda, ecco, in modo tale da trasformare l'attività di orientamento in un'attività di promozione, cioè non è che si va lì a vendere i propri prodotti, ma si va a raccontare, no, qual è il profilo. Qual è la proposta? Sì, in effetti gli open day a volte sembrano un po', no, il mercato. Sì, diciamo che se prevale anche involontariamente, no, perché magari non ben guidato, perché magari non c'è appunto non c'è stata finora fino in fondo una possibilità di una sintesi generale, se si è ispirati a un criterio più commerciale, mettiamola così, no, più studenti prende meglio è, alla fine si rischia di non fare bene quello che si deve fare. Cioè... Assolutamente, ecco, l'impressione, insomma, anche per esperienza personale, che in alcune scuole l'orientamento si faccia tantissimo, forse anche troppo, i ragazzi ne escono un po' frastornati alla fine da tanti test, consigli orientativi, eccetera, che alla fine si confondono le idee ancora di più. E invece altre scuole che sono davvero scarse nella proposta che fanno di offerta all'orientamento. Ecco, ma il bilanciamento tra questi due estremi che lei ha sperimentato e cita è un compito nostro, no? Cioè anche l'orientamento non è un'attività artigianale che si fa così, perché c'è un preside che ne ha intuito l'importanza, perché ci sono degli insegnanti più volenterosi. È un'attività che ha una sua fondatezza scientifica, tecnica, che è diffusa nei paesi avanzati, e quindi noi dobbiamo ispirarci a questi principi e guardarci che abbiamo ben descritto, e credo che insomma ormai anche i ragazzi diventano sempre più abili nel discernere. Ministro, che scuola superiore troveranno questi ragazzi nell'anno scolastico, quindi 2015-2016, alle superiori? Che novità potranno trovare? Ma noi quest'anno puntiamo intanto su una serie di attività che sono già state anche raccontate dalla stampa, anche recentemente io le riassumo, che si legano anche a un'occasione importante per il nostro paese, che è l'Expo, che apre tra pochi mesi e che introdurranno cultura alimentare, cultura ambientale, tutta una serie di temi che non sono confinati in una disciplina, ma diventano lo stimolo per un comportamento virtuoso anche nella vita dei nostri ragazzi. Ecco, un recente sondaggio dice che i ragazzi, quando sono incerti, scelgono il liceo, un po' la maggior parte, insomma, evidentemente stiamo facendo dei calcoli, dei numeri. È giusto secondo lei questa cosa? Cioè, quando non non si sa dove andare, si va comunque al liceo. C'è da mettere a punto qualcosa anche da questo punto di vista? Non è una lettura del tutto corretta. Io forse penso a una spiegazione diversa. Cioè, da un lato il liceo è la scuola superiore nel nostro paese che dà una preparazione più generale, no? Quindi chi non ha, diciamo, attitudini così spiccate, passioni e già interessi così spiccati per certi settori, penso a quello dell'arte per esempio, no? L'abilità al disegno eccetera, e chiaramente può essere più attratto da una formazione di carattere generale, e non ci trovo nemmeno niente di male sinceramente. Però c'è un altro punto invece, quello è un elemento su cui si deve lavorare in Italia, lo stiamo facendo molto meglio, cioè stimolare anche l'interesse più tecnico, più professionale, che è diventato un po' una scelta di serie B, no? Diciamolo con molta onestà intellettuale, non solo per i ragazzi ma soprattutto per le famiglie. E allora magari ci sono ragazzi che avrebbero una grande passione anche da bambini, insomma ai 13 anni quando si sceglie la scuola di secondo livello, per materie più tecniche, più professionalizzanti, ma non sempre questa scelta viene vista come una scelta paritetica rispetto viene sostenuta al liceo. Magari dalle famiglie, e non quindi, viene sostenuta con... No, non sempre e non in tutti i tipi di famiglie. Allora noi dobbiamo far sì che la scelta sia veramente motivata, come ho detto prima, dallo studente, dalle sue interessi, dalle sue passioni, dalle sue abilità, perché poi non tutti siamo dotati dello stesso tipo di talenti, e che non sia invece pilotata da gerarchie pregiudiziali. Ecco, lei oggi ha visitato la fabbrica della Bosch. Sì, appunto, avevo in mente anche questo. E ha fatto una promessa, quella di dare maggiore impulso all'alternanza scuola-lavoro, che lì invece viene praticata con solerzia. Ecco, è una promessa che fa anche a noi? Sì, è un impegno in realtà già assunto nella buona scuola, è un impegno che ha dei numeri molto precisi che ripeto, più di 200 ore per tutti gli studenti degli istituti tecnici che di laboratorio a partire dal prossimo anno scolastico, laboratori adeguati all'attività di stage e di alternanza, e per questo abbiamo già stanziato quest'anno 110 milioni che serviranno a fare un bel pezzo di strada, e poi l'ultimo miglio lo faremo col decreto a fine febbraio. Quindi io credo che l'impegno del governo su questo tema è un impegno preciso, con delle tappe che siamo in grado, di cui siamo già in grado di render conto. L'ultima domanda, poi la lasciamo andare alla sua serata. Un problema un po' storico, no? che emerge anche questa sera, è quello di non avere abbastanza strumenti per le famiglie per giudicare le varie scuole. È vero che ci sono i siti internet, è vero che ci sono gli open day in cui appunto le scuole illustrano la propria offerta formativa, però è anche vero che molto si basa su passaparola, perché poi se gli insegnanti di quella scuola sono bravi, sono motivati eccetera, da nessuna parte sta scritto. Anche da questo punto di vista, cosa si può fare? Ma quello che direi si può definire la reputazione di una scuola, così come degli insegnanti che insegnano in essa, è un fattore comunque importante e quindi non va trascurato, è un fattore antico ma rimane. E noi facciamo qualcosa di più, sempre nella buona scuola è prevista la scuola trasparente, cioè un'anagrafe generale di tutti gli insegnanti, delle attività che svolgono, dei loro curricula, quindi in modo tale che si possa avere una fotografia, no, dell'istituto scolastico in cui studiano o studieranno i nostri figli, punto primo. Punto secondo, quell'attività di autovalutazione che tutte le scuole italiane finalmente da luglio di quest'anno dimostreranno e racconteranno in maniera aperta al paese e anche al ministero, è un'ottima base, perché non è una valutazione fai da te, anche questo è un'attività che ha non solo una sua storia ma una sua fondatezza scientifica, metodologica, e noi applicheremo questi criteri, quindi se uno quindi va a vedere un buono strumento. Mette insieme le due cose e poi ascolta anche il tantam, come diceva lei, non mi ci trovo niente di male, perché insomma sì. No però certo non può essere sufficiente, anche perché non tutte le famiglie poi sono in grado, ma poi di anche solito di... le due cose si abbinano, guarda, almeno nella fascia positiva e alta, ecco. Grazie ministro, grazie a lei, buona serata a tutti. Buona serata. Grazie. Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, solo sulla cima intenderò i predoni, arriveranno in molti, solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Da insegnante, ci scrive Giovanna, che ci ha scritto un sms al 349-238-6666. Non scegliete in base alle vostre aspirazioni mancate, immagino che si rivolga ovviamente ai genitori, o al prestigio di una scuola. Maria Rosaria Mancinelli è di nuovo con noi. Sì. Dice bene Giovanna? Sì, certo. Ho ascoltato gli interventi di prima, volevo spostare un attimo l'attenzione dalle scuole al ragazzo, sì, e alle famiglie, puntualizzando il fatto che comunque l'orientamento di cui stiamo parlando adesso è solo l'atto finale di un processo che dovrebbe iniziare precocemente nei primi anni di scuola e proseguire nel tempo attraverso lo sviluppo delle competenze sia di base che delle competenze orientative, che vengono soprattutto attivate nell'ambito scolastico e nell'ambito familiare. Quindi la scelta è, ripeto, il momento conclusivo di un percorso che deve avere proprio come luogo privilegiato l'istituzione scolastica. Ora, gli atti legislativi ci sono, le linee guida ci sono alcune scuole che attuano ormai da numerosissimi anni questi percorsi di orientamento formativo, altre scuole che invece non fanno niente e all'ultimo minuto magari presentano qualche scuola. Però siamo arrivati al 15 di gennaio, a questo punto bisogna scegliere. Allora, che cosa può fare una famiglia in questi ultimi 30 giorni rimasti? Dovrebbe tentare di non sbagliare. Una tendenza, comunque dovrebbe darsi un po' di tempo. Se fino a questo momento non ha preso in considerazione tanti elementi, ha ancora un mese di tempo per cercare di ripercorrere le tappe di un processo decisionale, partendo appunto dal ragazzo, dagli suoi interessi, dalle sue capacità, dalle sue motivazioni, dalle sue aspirazioni, una serie di elementi interni al ragazzo stesso, e in qualche modo individuare l'indirizzo più adatto al ragazzo. Dopodiché si sceglie all'interno del proprio territorio la scuola che risponde maggiormente a queste esigenze di carattere personale. Quindi direi che bisogna partire dal ragazzo e poi scegliere la scuola e non viceversa. Sì, non è facilissimo, perché a 13 anni i ragazzi già parlare con loro è un'impresa. Ma non è vero che è difficile, però è l'unica strada. È l'unica strada, è l'unica strada. Perché è un processo di crescita, quindi dicevamo che gli insegnanti sanno parlare con i ragazzi, se hanno gli strumenti per farlo lo fanno benissimo. Non hanno molte volte la possibilità di attivare questo percorso di sviluppo. Quindi insomma parlare con il ragazzo, però anche scegliere poi la scuola più o meno nel bacino, più o meno raggiungibile, non è una cosa semplice. Ci si affida moltissimo al passaparola, ci si affida moltissimo a quello che dice l'amico, il padre dell'amico, la madre dello zio, eccetera. Però insomma scegliere e capire se una scuola è una buona scuola davvero non è cosa semplice, perché sono pochissimi gli strumenti per giudicare le scuole. Uno lo ha messo a punto la Fondazione Agnelli. Noi salutiamo Andrea Gavosto. Buonasera. Buonasera a voi. Qual è lo strumento che avete messo a punto? Lo strumento si chiama eduscopio.it ed è uno strumento, è un portale, quindi è uno strumento informatico che aiuta le famiglie a fare la scelta sulla scuola superiore. Cosa vuol dire? Vuol dire che una volta scelto un indirizzo, quindi liceo, classico, scientifico, istituto tecnico, economico, tecnologico, ciascun ragazzo, ciascuna famiglia può, in questo portale, che cui accesso è totalmente gratuito, può selezionare il comune di riferimento, il comune dove vive, e nell'arco di un certo raggio compaiono tutte le scuole disponibili di quell'indirizzo, quindi tutti i licei classici, tutti gli istituti tecnici. A ciascuna di queste scuole è abbinato un indice che noi calcoliamo, che è un indice che misura un aspetto importante, anche se non è ovviamente l'unico, della scelta scolastica, che è come quella scuola prepara per gli studi successivi, vale a dire per l'università. Quindi siete andati a vedere quali sono i risultati al primo anno dei ragazzi che sono usciti dalle singole scuole all'università. Esattamente, abbiamo visto i risultati intesi come il voto medio all'università di tutti i ragazzi usciti, abbiamo considerato quasi 700.000 studenti, ci sono tutti i ragazzi che sono usciti da quella scuola negli ultimi tre anni scolastici e si sono immatricolati all'università. E abbiamo visto non solo quindi il voto medio, ma anche il numero di crediti formativi universitari che hanno ottenuto al primo anno. Questo perché vogliamo evitare una situazione in cui magari un ragazzo dà solo un esame, prende 30, ma dà solo un esame, quindi non può essere indicativo, certo. Certo, anche la regolarità. Ed è uno strumento comunque utilizzabile per così, può essere uno dei tanti utilizzabili per capire se quella scuola è valida o meno. Grazie ad Andrea Gavosto. Vi ricordo l'800 24 00 24 per intervenire in diretta. Rusconi, in effetti giudicare le scuole non è facile, non ci sono No, non è facile modi. Perché non abbiamo ancora noi un valido sistema di valutazione delle scuole, degli insegnanti, dei presidi. Siamo in forte arretratezza, il vero spread con altri paesi europei è proprio questo, non è solamente quello economico-finanziario. E da quest'anno è stato avviato dal Ministero un processo che sarà piuttosto lento perché dura fino a di qua a 10 anni per la valutazione delle scuole, l'autovalutazione, adesso non entro negli aspetti tecnici. Volevo però sottolineare una cosa, che è sì importante, come diceva la psicologa, parlare dello studente, avere come punto di riferimento lo studente, però attenzione, la scuola fanno gli insegnanti. Per cui io dico a un genitore, dovendo scegliere fra la scuola prestigiosa, però so, non ho strumenti, ma so che socialmente quella scuola ha degli insegnanti magari non sempre validi, piuttosto assenteisti, molto, come dire, fin troppo severi, e un'altra scuola meno prestigiosa, ma con insegnanti più, come dire, che si dedicano più allo studente, che ne capiscono le motivazioni, che lo motivano e così via, beh, non avrei dubbi nello scegliere la scuola meno prestigiosa ma più attiva. Al di là magari proprio del risultato. Del voto. Ci dobbiamo fermare per qualche istante per la pubblicità. 800 24 00 24. E adesso le news. Una nuova partnership per Alitalia. Grazie a un network più ampio e più efficiente. Alitalia, da compagnia di bandiera a bandiera dello stile italiano. Comincia un nuovo viaggio per Alitalia, pronta a portarvi ancora più lontano, con più destinazioni, più servizi e ancora più offerte. Ad esempio Rio de Janeiro, San Paolo, Buenos Aires, da 559 euro, andata e ritorno tutto incluso. Ed è solo l'inizio. Compra entro il 22 gennaio. Info e condizioni su alitalia.com. Sole, mare, ragazze. Sì, ferie, caro mio. Ferie? Ma dai, datti malato. È il capo, è fregato. Ti sembra così simpatico? Per accertare false malattie, assenteismo e doppio lavoro, affidati ad Axerta, l'agenzia investigativa specializzata nella raccolta prove da esibire in giudizio. Fai il tuo preventivo gratuito su axerta.it. Axerta. Indaga, documenta, accerta. Mi chiamo Simone De Angelis e questa è la mia officina. Aiuto i miei clienti a ottenere le massime prestazioni dalle loro auto. Quando ho finito la messa a punto, consiglio di usare con regolarità Esso Supreme Diesel, perché contribuisce a pulire gli iniettori, migliorando ulteriormente le prestazioni del motore. Nuovo Esso Supreme Diesel, te lo consiglia Simone. Provalo subito. Limitazioni e condizioni su carburanti.esso.it. Scuola, quale scelta per i nostri figli? Sapete che cosa sono i rituali? Alzandovi voi compiete un rituale e mi dimostrate così che non siete degli animali. Nella mia classe, durante le mie lezioni, sarete degli esseri umani. Ok. Voglio dedicare il prossimo pezzo al nostro nuovo professore, Robert Zupan. Tutta la quarta A gli augura che il lavoro lo esalti come esalta lui la quarta A con le sue splendide lezioni. E questo era un brano tratto dal film Class Enemy, applaudito alla 70ª mostra del cinema di Venezia dello sloveno Rok Bicek. L'arrivo del nuovo professore, il durissimo Robert, innesca un violento cortocircuito. E noi abbiamo al telefono un professore che, insomma, spero non sia cattivo come quello del film. Daniele Manni è uno dei due professori italiani che concorre al Nobel per gli insegnanti migliori del mondo. Buonasera, Daniele. Sì, buonasera a voi. Buonasera. E a tutti gli ascoltatori, salve. Beh, sono diciamo che il contrario del docente cattivo. E meno male, e meno male. Daniele Manni, un consiglio dal prof da Nobel per questi genitori alle prese con questa scelta così difficile. Lei che consiglio potrebbe dare? Abbiamo detto dialogare con i ragazzi, vabbè, questo è abbastanza, è importantissimo, sicuro, ma altrettanto scontato. Quale altro consiglio si sente di dare? Ma guardi, il consiglio forse più immediato che mi viene in mente è quello che in questo periodo i ragazzi adesso hanno un mese di tempo per fare una scelta, che è quello di trascorrere quanto più tempo possibile presso le scuole superiori dove avrebbero intenzione di iscriversi. Vengono definiti stage, la possibilità di andare in quella scuola e frequentarla regolarmente, un giorno intero, due giorni, proprio per capire il respiro che c'è. I ragazzi hanno la possibilità di vedere che tipo di lezioni vengono fatte. Ma forse la cosa più importante è durante il periodo della ricreazione, se hanno possibilità di parlare con i ragazzi dal primo al quinto anno, si fanno un'idea sempre più precisa di che tipo di studi si fanno e che tipo in pratica di possibilità e offerte offre quella scuola. Quindi, quando possibile, far andare i ragazzi proprio nelle scuole a cui sono interessati, anche per respirare un po' l'aria, no? Per sentire un po' l'atmosfera, esatto. Perché quello forse è più importante di un open day in cui i presidi raccontano un po' quello che vogliono, no? Diciamocelo. Perché ma poi i docenti, voglio dire, quando andiamo a fare orientamento nelle scuole, io lo faccio da anni questa operazione, onestamente siamo liberi di raccontare tutto il paradiso possibile, però sosteniamo sempre. Lo diceva anche la Giannini, no? È un po' una vetrina, insomma. Esatto. Invece vivendo un giorno o due a scuola, lì non si può bleffare, lì si sente i ragazzi come la respirano, come la vivono tutti i santi giorni, che tipo di atmosfera hanno e soprattutto il tipo di studi. Grazie a Daniele Manni. Cominciamo a rispondere un po' a qualche mail che è arrivata in questi giorni. Devo dire che ce ne sono state moltissime riguardanti il problema dei ragazzi disabili, un problema evidentemente molto sentito e ha ragione. Ci ha scritto Giuseppe da Roseto degli Abruzzi, che è il papà di un ragazzo autistico con una elevata funzionalità e un buon talento nella matematica. Si pone il problema di scegliere quale scuola superiore, appunto. Avevano pensato ad un liceo con indirizzo scienze applicate, ma si chiedono, eccezione fatta per la matematica, per le altre materie, un soggetto disabile che vorrebbe ottenere un titolo e non un attestato deve avere una performance uguale ai soggetti normodotati, o si possono istruire dei percorsi personalizzati che ne prevedano l'esenzione oppure integrazione verso le materie che più sono a lui ostiche. Questo Giuseppe. E poi ci ha scritto anche Majid, Chabi Majid da Carpenedolo in provincia di Brescia, che ha un fratello di 14 anni, Mustafa, con sindrome di Down. Anche lui frequenta la terza media e il fratello si pone il problema di dove scrivere il fratello, perché avrà bisogno di un'assistenza anche per recarsi a scuola. Eugenio Bruno, è un problema molto sentito questo dalle famiglie, lo si può immaginare perché. Sì, è un problema reale ed è un problema, diciamo, per risolverlo non basta sicuramente la piattaforma online che il Ministero mette a disposizione per le domande, quindi in questo caso il consiglio che ha dato il professor Manni è ancora più valido, cioè comunque di farsi un giro per le scuole, di provare a parlare con i docenti per capire che tipo di, al di là del numero dei docenti di sostegno, che tipo anche di lavoro viene fatto da, appunto, dai gruppi di lavoro. In questo caso il consiglio di massima sì, è quello di seguire le inclinazioni del ragazzo e di approfondire, proprio parlando con i docenti, cercare di capire se sarà possibile che il ragazzo raggiunga quegli obiettivi minimi ai quali è condizionato il rilascio di un diploma. perché altrimenti... Certo. Rusconi, in effetti i ragazzi disabili vengono sempre convogliati verso i professionali, ma è sempre giusto che sia così? Ma guardi, no, è uno dei, diciamo così, dei pregiudizi spesso dei licei, mi tocca dirlo, insomma, questo. È importante che i ragazzi disabili possano andare anche a un liceo classico, un liceo scientifico. Io ho avuto appunto l'esperienza di un ragazzo disabile molto grave che è venuto al liceo scientifico che io conducevo fino a qualche anno fa. E naturalmente abbiamo fatto un discorso, ho fatto un discorso, molto dipende dal capo d'istituto che deve imporre spesso appunto anche questa logica dell'accoglienza, perché chiaramente avere a che fare con un disabile è più pesante, più faticoso, significa maggiore impegno, vuol dire maggiore amore nei riguardi del ragazzo e quindi ci deve essere una scuola da questo punto di vista molto accogliente. Poi lo Stato mette a disposizione tutto, l'insegnante di sostegno, il cosiddetto AEC, il bidello che può assisterlo anche nella pulizia fisica durante l'intervallo e non solo, ma la scuola deve avere un'atmosfera, diciamo così, accogliente di per sé. Certo, non basta per poter andare a scuola un giorno e vederla, è difficile che i ragazzi possano entrare in una scuola per andare a vederla, una scuola superiore, ci vorrebbe la candid camera probabilmente, che sarebbe molto più efficace. Discorso importante è anche quello dei disturbi dell'apprendimento, perché anche lì spesso i genitori ci segnalano che devono davvero imporsi sulle scuole per ottenere i diritti che peraltro adesso sono un diritto per legge. Questo dipende da una inefficienza, diciamo, delle istituzioni, perché spesso gli insegnanti non sono in grado di aggredire una dinamica come quella del disturbo di apprendimento, dei cosiddetti BES, bisogni educativi speciali, in quanto non sono stati preparati ed aggiornati. Un insegnante di latino e greco, di matematica e fisica, dal 1997-98, in base a dei contratti collettivi di lavoro che io definisco surreali, non ha più l'obbligo della formazione, cioè lo Stato impone la formazione al mio meccanico, al mio elettrauto, allo psicologo, al medico eccetera, non lo impone agli insegnanti, il che è un grave danno per la comunità, direi soprattutto degli studenti, e mi meraviglio che i sindacati da questo punto di vista, i sindacati della scuola, non si facciano portavoce di una necessità inderogabile. 800 24 00 24 per le vostre domande. Daniele, sono Paolo da Latina. Ho mia figlia che è appassionata di lingue, vorrei sapere se è meglio liceo linguistico o scientifico a indirizzo linguistico. Cosa rispondiamo? Ma io risponderei dicendo che bisogna cercare di approfondire gli interessi e le abilità di questi ragazzi in maniera un po' più profonda, perché ecco, non è detto perché uno abbia la passione delle lingue necessariamente debba fare un liceo linguistico. Ci sono molte professionalità che possono ruotare attorno alla conoscenza appunto delle lingue straniere. Pensa ad esempio a tutte quelle professionalità magari legate alle scienze internazionali, oppure pensa a quelle professionalità legate anche al mondo del turismo, per cui sarebbe più consigliato un istituto tecnico professionale a indirizzo turistico. Ecco, molto spesso io sento anche dire dai ragazzi, anche dopo ad esempio, sono bravo alle materie umanistiche, allora vado a fare lettere. Ecco, bisognerebbe essere un po' più concreti nel cercare di capire quali sono le passioni e i talenti di questi ragazzi e fare una scelta congruente, senza avere paura di andare a un tecnico, a un professionale. Anzi, oggi molto spesso ci sono delle figure formate in questa filiera di scuole che poi magari trovano un lavoro molto più facilmente di un laureato. Assolutamente. Maria Rosaria Mancinelli, allora, che altri consigli possiamo dare? Andare a vedere le scuole, parlare con i ragazzi, cos'altro? Mi riferisco un attimo al problema delle disabilità. Sì. E dei disturbi dell'apprendimento. In questo caso bisogna distinguere le disabilità, perché c'è una grande c'è una vasta gamma, certo. Ecco. Quindi il problema, sono d'accordo con quanto è stato detto prima, bisogna valutare preventivamente il problema, vedere quali sono le effettive capacità dei ragazzi, che tipo di percorso le scuole, sia le scuole medie che poi le scuole superiori, possano garantire a questi ragazzi, e anche i loro interessi, perché non è detto che debbano andare assolutamente tutti agli istituti professionali. Comunque deve essere fatta una valutazione individuale, accurata, di tante dimensioni personali, in modo da permettere a loro di scegliere tra tutti gli indirizzi possibili. Ecco, molte scuole a prescindere dai ragazzi disabili, molte scuole fanno svolgere ai ragazzi i test d'orientamento. Sì. Sono utili? Sono uno degli strumenti utilizzabili in questa situazione? Che peso si deve dare a questo test? Io utilizzo i test, li ho costruiti, quindi sono d'accordo nell'uso professionale dei test. I test devono essere dei veri strumenti di valutazione, quindi scientifici, applicati dagli psicologi e i cui risultati vanno restituiti personalmente ai ragazzi e alle famiglie all'interno di un colloquio. Quindi diventa un'informazione ulteriore che noi diamo, certo, ai ragazzi per fare una scelta autonoma. Sono contraria al consiglio orientativo. Sentiamo cosa ci chiede invece Simona dalla provincia di Monza. Buonasera Simona. Sì, buonasera. Siamo qua. Sono la mamma di una ragazza appunto che deve fare appunto la scelta della scuola superiore. E niente, io mi chiedevo appunto questa cosa qua, siccome a scuola comunque gli hanno dato un consiglio orientativo abbastanza diverso da quello che vuole fare lei. E quindi ci troviamo da una parte la ragazza che insiste a fare il liceo delle scienze umane e dall'altra invece i professori che tendono un po' di più a proporre il professionale. Mm. E noi abbiamo portato la ragazza a visionare sia una che l'altra. Lei ha insistito per il liceo, per tante cose. La domanda è che peso dare anche al consiglio orientativo, perché è vero che molti insegnanti a volte sembrano anche un po' sottovalutarli questi ragazzi, cioè giocano sempre un po' al ribasso, forse perché hanno anche un po' paura di portarli ad un livello. Spesso accade, appunto anche la mia esperienza mi dice che spesso succede che il ragazzo che va bene a scuola, va meno bene a scuola, magari perché scrive meno bene e così via, viene indirizzato verso un tecnico, appunto un professionale, quello che scrive bene verso il liceo classico, il liceo scientifico. Io direi che i professionali non possono essere considerati delle scuole di serie C, perché quando poi da questi professionali usciranno degli idraulici, usciranno dei meccanici, usciranno degli operatori turistici, dei parrucchieri, vorrei vedere se per caso il loro lavoro sarà fatto bene o quello sarà fatto male. Quello senz'altro, però se la figlia di Simona è convinta della sua scelta, se è convinta della sua secondo scelta, me vale scelta la pena, il classico, vale la pena di però il genitore se ha un minimo umane. Di scienze umane, se ha un minimo di accortezza, deve andare a vedere se i prerequisiti, cioè quello che la scuola chiede all'inizio del primo anno, corrispondono più o meno al bagaglio culturale della figlia, altrimenti c'è il rischio della dispersione scolastica. Dispersione scolastica nel nostro paese, noi siamo ai primi posti in negativo nell'ambito dell'Unione Europea da questo punto di vista, e questo succede proprio perché si abbandona moltissimo nel primo e nel secondo anno, perché magari si è fatto una scelta non proprio assennata. 800 24 00 24, il nostro numero di telefono per intervenire in diretta. Ci fermiamo per qualche istante. Strade in diretta. Traffico scorrevole sulla rete autostradale sulle principali arterie. Segnaliamo che per lavori sulla tangenziale di Napoli in direzione di Capo Dichino, lo svincolo di via Campana in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, questa notte e la prossima verso l'allacciamento diramazione Capo Dichino. Per chi utilizza il treno segnaliamo che fra sabato 17 gennaio e domenica 18 la circolazione è sospesa sulla linea Torino-Bardonecchia dalle 22 di sabato alle 4 di domenica, provvedimento necessario per permettere un'esercitazione di sicurezza italiana francese che si svolgerà nella galleria del Fréjus. Infine segnaliamo che per domani, venerdì 16 gennaio, è stato indetto uno sciopero nazionale dei controllori di volo ENAV TechnoSky dalle 13 alle 17, possibili disagi per gli spostamenti. È tutto, il prossimo appuntamento tra un'ora. Scuola, quale scelta per i nostri figli? Passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. adesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali. Regalano due di picche aspettando un re di denari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista. Anche se poi tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengono. Fuori è magnifico, sì ma tu un po' di più. Se la bellezza a due passi a portata di manicure. Ma so che quando troveranno il centro dell'universo rimarrai delusa a scoprire che non sei tu. Ognuno coi suoi pensieri, i suoi segreti. Lo so, siamo divisi dallo spazio senza essere pianeti. L'amore rende ciechi, devo dirtelo. E io devo smettere di cercare le scarpe nel frigorifero. Ma tu non guardi me, continui a guardare fuori. Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori. Contraddizioni e vizi, ognuno il suo. Ma questa notte dormo sul mio fianco preferito, il tuo. 800 24 00 24. Per questi ultimi 10 minuti che ci separano dalla chiusura del nostro speciale Quale scuola superiore, Paola da Brescia, buonasera. Buonasera. Dunque, io sono un'insegnante di Istituto Tecnico Agrario di Brescia e proprio vedo gli alunni che arrivano dalla terza media e li accolgo insieme ai miei colleghi per un mesetto e mezzo. Cosa significa? Che proprio per un mesetto e mezzo questi spaventatissimi primini di scuola superiore vengono testati attraverso una serie appunto di prove, liberi da valutazioni, cioè senza angosce, e noi dobbiamo capire le loro reali competenze, perché quello che ci si dovrebbe veramente chiedere da genitori quando si devono ovviamente aiutare i figli a scegliere, ci sarebbero tre domandine da fare. Cioè, quanto sei capace di lavorare in autonomia rispetto alle medie che ti hanno un po' accompagnato? Quanta capacità di concentrazione hai al di là dei mezzi tecnologici che tutto il giorno maneggi, tra computer, cellulare, internet, PlayStation, da cui non si staccano mai, certo. Esatto, e questo è tremendo, perché alle scuole superiori ovviamente lo studio diventa molto più approfondito. E anche il numero delle materie, per esempio, sì, appunto elogiando il tecnico, ha un numero di materie tecnico-scientifiche incredibili che i ragazzi devono saper gestire anche nei poverini, nelle ore pomeridiane, no? E quanto stai a affrontare, la terza cosa che appunto bisogna anche, la frustrazione. Quanto sei attrezzato se tu ti butti in una scuola più difficile, magari più difficile di quella che i cattivissimi professori delle medie ti consiglierebbero, quanto sei capace eventualmente, quanto sei attrezzato per eventualmente prendere... Gestire la frustrazione qualora sì, i risultati non fossero quelli sperati. Sì, sì. Ludovica da Roma, sentiamo anche Ludovica che cosa ci racconta. Adesso voi avete tirato fuori il problema della frustrazione, io mi riaggancio a questo ultimo discorso, perché il ragazzo frustrato deve essere seguito, non deve avere la frustrazione, perché la scuola deve fare in modo di rendere trasparente la sua azione educativa e di fare in modo di far capire al ragazzo che quello che fa la scuola serve a qualche cosa, renderlo, motivarlo nel momento che non sia frustrato perché non raggiunge degli obiettivi. Gli obiettivi che si pone la scuola devono essere consoni al grado di apprendimento del ragazzo. Se il ragazzo non apprende, certo, vuol dire che c'è qualche cosa, c'è qualcosa che non funziona, nel momento non funziona educativo. Nel manico, insomma. Lucia Migliarini, insegnante di informatica in un istituto tecnico e professionale della provincia di Pordenone. Buonasera. Sì, buonasera. Allora, noi diciamo organizziamo per questi ragazzi, le chiamiamo pillole di frequenza, e praticamente organizziamo con le scuole medie di provenienza oppure con i genitori stessi quando ci vengono a trovare negli open day, queste mini lezioni sulle materie che caratterizzano i nostri indirizzi, quindi essendo un tecnico economico e un professionale, sono lezioni in economia aziendale, matematica informatica, diritto ed economia politica, anche aiutati dai nostri ragazzi, quindi alcuni allievi che si prestano, no, ad aiutarci. Che raccontano la loro esperienza, sì, certo. Sì, quindi mi riallaccio anche a quello che diceva il professor Daniele Manni, è importantissimo che anche questi ragazzini di terza media si trovino non solo con noi insegnanti ma anche con gli altri ragazzi, no? Quindi fare un confronto con loro anche nelle giornate di scuola aperta, abbiamo un'ottantina di ragazzi che ci aiutano, che li portano in giro per le aule informatiche, le aule di esercitazioni di scienze, certo. E comunque tornando alle pillole di frequenza, noi abbiamo tanti ragazzi, nell'ultimo incontro, quello del 9 di gennaio, venivano da 5 scuole medie, noi siamo a cavallo tra la provincia di Treviso e quella di Pordenone, quindi da Sacilia, Aviano, Pordenone, Vittorio Veneto, D'Erzo, avevamo una 45ina di ragazzi che sono stati a trovarci per tutta la mattinata, poi gli abbiamo rilasciato anche un attestato di partecipazione, quindi anche sì, questa è una cosa carina, penso, no? Daniele, noi... molti insegnanti che si danno da fare stanno chiamando questa sera per rivendicare, sì, il fatto che insomma fanno moltissime cose le scuole, eppure i ragazzi si lamentano che spesso gli insegnanti non li aiutano in maniera adeguata. Sì, il problema è che non tutti gli insegnanti sono proattivi nella scelta, ci sono alcuni che non si interessano, circa un 15% dei ragazzi lamenta questo atteggiamento, altri invece ai quali i ragazzi non sentono di riconoscere l'autorità per cui chiedere un consiglio, infine un ragazzo su 10 si lamenta che gli insegnanti lo scoraggiano, quindi globalmente prevale il sentimento positivo sull'atteggiamento degli insegnanti piuttosto che quello negativo di indifferenza, però è un problema di messa a sistema, cioè gli insegnanti dovrebbero essere coinvolti proprio perché conoscono i ragazzi nel processo decisionale e aiutare in maniera profonda, ecco, senza i cliché, come si diceva prima, se sei più dotato devi andare al liceo, se sei meno dotato apparentemente per i canoni scolastici devi andare riduttivo al tecnico professionale. Ecco, poi c'è l'altra componente di cui forse stasera abbiamo parlato poco, la componente dei genitori e delle mamme in particolare, questa ansia che buttano sui figli che devono fare questa, poverini, questa scelta così complicata. Davvero è un momento questo in cui nelle famiglie si litiga, si piange, ci si scontra in tutti i modi, anche di questo i ragazzi si lamentano, insomma un consiglio anche ai genitori di lasciarli forse anche un po' a sbagliare questi, sì, ragazzi, o no? Ti posso portare un'esperienza personale, ecco, io ho fatto ingegneria, ho un dottorato, però ecco faccio poi il comunicatore a scuola.net, la tragedia della famiglia è stata questa, cioè vedere un figlio laureato in ingegneria che va a fare una cosa completamente nuova, sconosciuta, quindi ecco lasciate i vostri figli seguire la passione e il talento, perché poi se saranno nel lavoro, seguiranno la loro passione, saranno anche bravi a farlo. Però Daniele c'è un rischio, perché sì, sono d'accordo che i genitori non debbano essere oppressivi, ma non devono essere neppure deresponsabilizzati, perché a me risulta invece che molto spesso sono gli studenti di 13 anni, 14 anni, poco più che bambini, a scegliere perché l'amichetto ha scelto quel tipo di scuola, perché mi hanno parlato bene del campetto sportivo e così via. Insomma, ci deve essere. Io ho avuto un episodio, mi ricordo ancora, quando ero un giovane preside di scuola media, mi viene una signora con un bambino, era una giornalista, un bambino di 11 anni, quindi dicendo a mio figlio si vorrebbe iscrivere, dico ma sa signora abbiamo le liste chiuse, questa è una scuola molto chiusa, molto richiesta, siamo in overbooking, dice no lui è già iscritto in questa scuola, però voleva rendersi conto se valesse la pena di veramente di frequentarla, cioè io ho fatto veramente, posso dirlo, un cazziatone alla mamma che se lo ricorderà per tutta la vita, dico lei non è una persona democratica, è una persona che sta semplicemente rimpallando una responsabilità su un bambino di 10 anni e mezzo, 11 anni, che non ha la forza di poterla, diciamo, di poter gestire questa responsabilità. Quindi i genitori devono essere responsabili e non oppressivi, non si devono però deresponsabilizzare, perché a me risulta che la maggior parte di loro dice io sono democratico, scelga mio figlio, e no, figlio anche mio, per... devi fare in modo anche di condurlo, sia pure intelligentemente. Ecco, che succede poi quando questi ragazzi arrivano sui banchi del liceo, parliamo in questo caso della sua esperienza di preside e scoprono dopo un mese che forse la scelta davvero è stata inopportuna. Ah, guardi, c'è una normativa che risale ancora al ministro Berlinguer, le cosiddette passerelle, cioè bisognerebbe poter indurre questi ragazzi ad andare poi in un'altra scuola. È di difficilissima applicazione, direi che è una di quelle norme buone ma completamente desuete, andrebbe completamente, diciamo, rimessa in auge, facendo in modo che gli insegnanti fossero in grado naturalmente di poterla gestire in simbiosi poi con altre scuole, perché un problema anche della scuola italiana è che non solo gli insegnanti sono abbastanza individualisti nel lavorare, non c'è una grande cultura del lavorare in team, ma le stesse scuole sono molto individualiste, cioè le scuole hanno difficoltà a entrare in rete, a collegarsi. C'era una proposta di legge appunto relativamente alle reti di scuole, è una delle tante cose intelligenti che è rimasta invece nei sottoscala del Parlamento. Dobbiamo concludere purtroppo, una pillola di consiglio finale? Chiedete al bidello intelligente come la scuola che vorrà frequentare vostro figlio, perché spesso non sa più il bidello di tanti... Del preside. Daniele. Niente panico, c'è ancora posto nelle scuole, quindi non vi affollate, perché ogni anno il primo giorno si iscrivono sempre più persone. Eugenio, un consiglio, dai, lo so che tu sei più un tecnico, però... Il consiglio di incrociare le dita e aspettare l'anno prossimo. Benissimo, benissimo. Grazie mille a Maria Rosaria Mancinelli, a Daniele Manni, Andrea Gavosto, Lucia Migliarini che hanno partecipato. Qui in studio con me Mario Rusconi, Daniele Grassucci ed Eugenio Bruno. Un ringraziamento in regia Valerio Rocchetti. Un saluto da Maria Piera Ceci.